E inizia la seconda ora di Up. E continueremo ancora per alcuni minuti con l'intervista a Nicola Stefanato degli Universal Sex Arena, ma prima di proseguire vi do il dettaglio della prima e della seconda mezz'ora di Up. Abbiamo ascoltato in ordine appunto di comparizione Secret People, Horizon of Barking Dogs, Meridian, 1-3 In Palermo You Can't Have Me. Nella seconda mezz'ora invece siamo partiti con Momentum, per poi passare a Etna e poi due brani tratti dal primo album, ovvero The Light Ones e Augustus Rooms. Il primo album, ricordo, si intitolava Women Will Be Girls. E noi quindi continuiamo, poi verso la fine di questa seconda ora ascolteremo una sorta di mashup della playlist che mi ha fornito gentilmente Nicola, e quindi ascolteremo anche un po' le cose che piacciono agli Universal Sex Arena. C'è veramente un po' di tutto, ma c'era da aspettarselo. Ebbene, allora continuiamo. Ricordo appunto che siete sempre all'ascolto di Up, Radio Onde Furlane, Nicky D'Andrea al microfono e alla conduzione, e quindi buon ascolto con la musica degli Universal Sex Arena. Strong enough. sweet confusion. Wanna be a little confusion? Yeah, confusion. Bring to light, bring to light, bring to light, bring to light. Quindi dici che il vostro pubblico è più composto da maschi che da femmine, oppure cosa noti dal palco, insomma? Noto che c'è un bel equilibrio, noto che tra le prime file comunque le ragazze non si sentono minacciate, e questa cosa mi piace molto. Mi sono sempre piaciuti i concerti punk rock, punk hardcore, dove nel pubblico, insomma, si ballava con energia, si pogava, eccetera, eccetera. Mm. Però dall'altra parte, dal palco, mi piace vedere che c'è l'ascolto delle donne, insomma, è una cosa che ci fa moltissimo piacere. E il nostro pubblico è abbastanza in equilibrio. Secondo guardando le statistiche di Spotify c'è una grande predominanza dell'uomo, però, però insomma, sì, diciamo che in sala durante i concerti c'è un buon equilibrio, purtroppo a favore ancora del maschio. Ancora. Gli uomini in prevalenza. Okay. Purtroppo sì, dico purtroppo perché è sempre, non è un discorso solo, non è un discorso sessuale, è proprio un discorso che abbiamo sempre avuto la convinzione che la donna comunque ha questo sentimento in qualche modo innato del bello alla fine dei conti, nel senso che un uomo vede tante cose in una chitarra distorta, in un colpo di rullante forte o più debole, la donna in qualche modo recepisce, toglie questi dettagli da nerd musicista e coglie più il significato complessivo di una canzone, cioè, secondo me coglie la sensazione di una progressione più che gli accordi, la quinta, la settima, il diminuito, non è una questione, è una questione proprio complessiva di sentimento, e la donna lo sa cogliere in maniera generalmente più adulta quasi del maschio, che si lega a questo, a quel dettaglio a quanto pare. E quindi nulla, abbiamo quelle come le migliori destinatarie del nostro messaggio. Quindi sì, le donne colgono l'essenza della musica, invece l'uomo va più in profondità, diciamo, e va a cogliere anche i dettagli che effettivamente sì, magari certe volte possono essere anche tralasciati, se vogliamo, perché come dici tu, tante volte siamo proprio dei nerd che andiamo a guardare appunto l'assolo, oppure non so, le parti più particolari che in realtà, insomma, sì, una canzone andrebbe vista proprio nella sua complessità, non solo nelle singole parti. Sì, nella sua capacità di produrre emozioni. Di comunicare. Esatto, cioè, il pubblico peggiore per un musicista sono i musicisti, in genere. Però abbiamo avuto a che fare abbiamo la fortuna di conoscere diverse ragazze che suonano, diverse musiciste. E quindi con una meravigliosa ci abbiamo anche collaborato per la registrazione del disco. Si tratta di Ellie De Mon, donna bellissima, da poco diventata madre, eccezionale musicista. Il suo strumento è il contrabbasso, suona benissimo chitarra e sitar anche. Nel nostro disco ha suonato il contrabbasso in un brano che si chiama Radical Leather, e ha suonato il sitar in un pezzo che si chiama Like Home, l'assolo di sitar è proprio suo. Parlando di musica con Ellie De Mon, non si parla di musica, ma si parla di canzoni, si parla di emozioni, ed è questo il bello. E spesso invece, come musicisti maschi, mi sono trovato davanti alla figura del Riccardone, no? di quello che deve puntualizzare il fatto che lui sa che ha notato cose che tu magari scrivendo non avresti mai pensato di notare, talmente fuori dal punto della questione. Ecco, le donne mediamente, secondo la nostra esperienza almeno, hanno più dentro il punto della situazione quando si parla di una canzone, di un'emozione. sì, no, hai assolutamente ragione, effettivamente. No, ripenso anch'io magari un po' forse il maschio ha anche un po' questo timore reverenziale, ha il bisogno di affascinare l'artista, no? Devo andare lì, ma devo dire qualcosa di intelligente, perché sennò faccio una figura di merda. Allora tiriamo fuori tutte le possibili ramificazioni di un brano, di un album, giusto perché vogliamo un po' fare bella figura in sostanza, perché sennò non posso andare lì a dire solo mi è piaciuto il vostro disco e chiudere il discorso, devo fare un po' di conversazione e far capire che ho apprezzato il disco in particolare. Poi magari arriva la ragazza e dice semplicemente questo pezzo è fantastico, Ed è molto meglio. È molto meglio, perché, insomma, è un po' forse anche più sincero come commento rispetto per un artista, insomma. So you need all right for tonight. Yeah, I know I go fast till dark. Please take your seat. Anche il vostro, la vostra idea di live, che è proprio la cosa, penso, per cui la band sia, è così vitale, insomma. Sono importanti gli album, però devo dire che la dimensione live, ho visto anche degli spezzoni, insomma, è forse la più importante per voi. Quali sono, magari c'è qualche aneddoto, qualcosa che in passato, visto che avete suonato tantissimo un po' in tutta Italia, qualcosa che è successo in passato che esemplifica in maniera particolare questa vostra dimensione, qualche aneddoto in particolare che ti viene in mente? Ma allora, gli aneddoti sono abbastanza. Un aneddoto che vada a premiare questo aspetto qua non mi viene in mente adesso. Però il fatto, allora, molto spesso noi suoniamo davanti a poca gente ci capita di suonare davanti a un pubblico ridotto, e, esattamente come quando suoniamo davanti a una persona, e questo non dovrebbe essere, la quotidianità di ogni, di ogni musicista che si rispetti, nel senso fare lo stesso concerto. Per, purtroppo non è così, per noi è così. E, un aneddoto preciso che parli di questa cosa qua, abbiamo suonato davanti a qualsiasi genere di pubblico, anche pubblico difficile, pubblico maleducato in qualche modo, ma come capita a tutti in realtà. Non avrei un aneddoto che parli di quanto ci piace suonare dal vivo. Comunque voi cercate costantemente di coinvolgere anche il pubblico, un po' come facevano gli Area negli anni 70, diciamo, oppure il vostro atteggiamento è diverso, cioè com'è che fate in modo che il pubblico possa essere partecipe? Noi cerchiamo di accendere il sorriso, il movimento, cerchiamo di portare le persone in quello che sta succedendo con il corpo. Nel senso, non siamo al massimo io chiedo al pubblico di reagire con la voce a qualche banalissimo stimolo monosillabico, non apro dialoghi difficili, non dico niente di difficile dal palco. Quello che succede è che noi puntiamo a accendere il pubblico, insomma, in tutti i modi. Quando vediamo che ci sono i sorrisi, che alla fine arrivano sempre, ci sono persone che si muovono con la musica, che ci seguono quello che facciamo, aspettano il numero successivo, la nostra missione è sostanzialmente compiuta. E, apriamo discorsi, diciamo, troppo difficili durante lo spettacolo, e facciamo di tutto perché il pubblico, e generalmente il pubblico che incontriamo nei nostri concerti, è nuovo, non siamo una band così conosciuta, e cerchiamo di fare in modo che parta proprio il concerto, cioè che si accenda la reazione da parte del pubblico, una reazione positiva, assolutamente divertita davanti a ciò che succede. Non c'è da parte mia, da parte nostra, una provocazione violenta, c'è una provocazione fisica positiva, e insomma assolutamente niente di nuovo da questo punto di vista, insomma. Quindi non tanto un modo di porsi alla primo Iggy Pop oppure non so altri. Sì, diciamo che lo shock che tentiamo di sì, allora è chiaro che insomma Iggy Pop piace a tutti noi, è uno dei nostri eroi primi, però un tipo di performance del genere, insomma, non può essere ripetuta adesso perché diciamo, è già stata fatta, quindi abbiamo forse più un approccio alla Happy Mondays verso quello che è già stato fatto, nel senso di cerchiamo di evitarlo in tutti i modi. Dopo, di qui in poi, si sa che io ho i capelli lunghi e spesso mi piace togliermi la camicia sul palco, e questo mi condanna alla similitudine. Sì. Lo capisco, è ok così. Ma sì, diciamo che le provocazioni del primo hip hop non sono né eguagliabili, né insomma sarebbe giusto andare a trovare la propria verità in quei dintorni. No, tentiamo semplicemente di risvegliare le persone, magari anche il venerdì sera quando vanno a vedere una band sconosciuta, in questo caso noi, e sono stanche perché hanno lavorato 8, insomma, o 10 ore. Noi tentiamo fino alla fine di portarli nel nostro piccolo viaggio fatto di divertimento, insomma, totalmente puro, il più possibile. Beh sì, interessante anche la playlist che mi hai mandato, che diciamo, farà anche da cornice alla puntata, visto che abbiamo 2 ore di tempo, e voglio fare in modo che si ascolti non solo l'ultimo ma anche i due album precedenti, insomma c'è un po' di tutto, da Fela Kuti ai Fugazi, Roxy Music, i Prodigy, cioè proprio si sente che la fisicità, beh ovviamente Stooges, Talking Heads, eccetera, la fisicità fa parte proprio della vostra musica, però c'è anche quello che mi è piaciuto della vostra musica, che a parte la fisicità c'è anche una certa complessità a livello musicale, quindi siete riusciti a mettere insieme due aspetti che non sempre vanno d'accordo, nel senso proprio il carattere funk, ma anche il carattere più complesso, quasi vicino per certe cose al prog. Sì, quella cosa lì sì, c'è stata segnalata da più ascolti, effettivamente è una cosa che esiste. Il festival è un capitolo un po' bizzarro nella mia vita e nella vita anche di Giovanni Spaccio, il nostro percussionista. Questo è un capitolo che abbiamo preso in considerazione nei nostri ascolti, nella nostra gioventù, e che assolutamente non rinneghiamo. Non è il nostro, diciamo, non è il nostro pane quotidiano. Diciamo che forse, magari inconsciamente, ha liberato alcune barriere matematiche nella stesura di alcuni pezzi, e quindi sia in Romanticism che adesso in Abdita, ogni tanto ci viene segnalata una familiarità con ad esempio i Mars Volta, altra band che io personalmente ho molto amato, ma di cui la frequentazione è finita almeno 10 anni fa per quanto mi riguarda. Ah, ok. Quindi adesso non riuscirei ad ascoltarli, guardo ogni tanto qualche loro video e a volte tolgo l'audio addirittura, altra cosa che mi rinnego, però mi piacciono molto dal punto di vista della performance, e, insomma questa origine sudamericana che trasuda sia nella fisicità che nei movimenti pazzeschi di chitarrista e cantante, però forse si legge ancora questo chiarimento in qualche canzone, magari alcuni passaggi poliritmici che possono essere meno consueti. Però in realtà, confrontandomi con invece amici più nerd, musicisti, a loro sembrano assolutamente normali, in quanto insomma non ci sono metri dispari, ad esempio, in questo disco. Però ci sono alcuni passaggi un pochino, magari forse più densi a livello ritmico. Sì, ma anche a livello di atmosfere, cioè anche l'atmosfera, diciamo, che riuscite a creare, a volte dà un'idea proprio di, evoca qualcosa di complesso, ma proprio anche di fisico al tempo stesso, ed è una cosa che veramente non tanti riescono a fare, insomma. Okay. Quindi complimenti anche per questo vostro aspetto. Grazie. E ultima cosa volevo chiederti, noi siamo, la sede è a Udine, ci sarà possibilità di vedervi in regione qui in Friuli prossimamente? Ci dici qualche data, insomma, vicina a noi? Magari, allora, al momento non ho memoria di cose già segnate per la vostra zona, però insomma la nostra squadra è... C'è lavoro. Quindi, esatto, sì. È friulana tra l'altro, quindi insomma la tempesta di Pordenone, insomma, e quindi però siamo passati periodicamente per tutti i dischi, almeno una volta o un paio anche lì in Friuli, quindi spero che riusciremo a tornare, insomma. Grazie mille, Danichi. Buona giornata. Ciao. Tonight, don't bring your worried minds. You have to be alive to fly. You have to be tough to find. The JB! The JB! The JB! You see it over there! Do you see it right there? Do you see it up there? between us. Take a look at these hands. Take a look at these hands. I don't have to mention it. No thanks. I'm a government man. Yeah. Battute finali di Up, in cui vi vado a leggere quello che abbiamo ascoltato in questa seconda ora. I primi tre brani erano ancora di Universal Sex Arena. Abbiamo ascoltato in particolare Breathe the Light, che era il brano di apertura del secondo album, poi Radical Leather e Like Home, tratti invece dall'ultimo disco, quello di cui abbiamo parlato ampiamente questa sera. E poi appunto ho proposto la playlist di Nicola Stefanato. E ovviamente non sono riuscito a mettere tutto, perché insomma la playlist era piuttosto lunga, ho dovuto fare un po' di tagli e cuci. In ogni caso siamo partiti con Jesus Lizard, Queen for a Day, per passare ai Fugazi di Repeater, il primo disco, James Brown con There It Is in una versione live, Talking Heads con la loro Born Under Punches, Fela Kuti di Echo Ile, poi New Bomb Turks di Quarter to Four, e gli ultimi due brani che erano i Roxy Music di Editions of You, e per concludere appunto Stooges con Funhouse, che abbiamo qua in sottofondo e che terminiamo di ascoltare tra pochissimo. Penso di aver detto tutto, e Nicky D'Andrea vi rimanda all'ascolto di Up della settimana prossima, quindi sempre venerdì dalle 19 alle 21, e augura un buon weekend. Take it down!